A ciascuno il suo, di Raffaella Calandra. La prima città d'Italia per delitti nel 2012 ed è il crocevia di tutte le più delicate inchieste partite da ogni procura d'Italia, ogni volta che interessi di vario genere si mescolano col potere e crescono in qualche modo all'ombra dei palazzi della politica. Eppure, anche se di fatto è diventata col tempo la capitale anche delle mafie, a Roma di mafia non si parla e quasi non si può parlare. Nonostante i 267.000 delitti registrati dal Viminale nel 2012, nonostante le storie di riciclaggio e usura si mescolino con quelle di morti ammazzati, latitanti in fuga, fiumi di denaro sporco e altri ancor più consistenti di droga. Per le mafie Roma è città aperta, o forse è esattamente quello che rappresenta per tutti gli altri la città del potere. Da qui è partita la riflessione sulla Roma criminale dal palco di Trame 4, il festival sui libri di mafia di Lamezia Terme, con la procuratore aggiunto capitolino Michele Prestipino, che traccia una mappa dei clan all'ombra del cupolone, lui che nella capitale è arrivato dopo anni nelle frontiere di Palermo e poi di Reggio Calabria. Roma è per le mafie quello che è per tutti gli altri, è città dei palazzi del potere. E allora dobbiamo partire da qui, e cioè dal fatto che il potere è una delle cose, probabilmente la cosa che più interessa alla mafia. Io intendo dire il potere politico, il potere della grande amministrazione, cioè il potere dei palazzi. Non è solo il potere economico, perché a Roma, Roma è una città, è uno scenario particolare che unisce al potere economico, in particolare a un certo tipo di potere economico che almeno fino adesso è stato quello che ha caratterizzato forse maggiormente la nostra vita economica, soprattutto quella delle nostre regioni meridionali, dove le organizzazioni mafiose tradizionali sono insediate, ed è l'economia dei grandi appalti pubblici, delle grandi opere pubbliche, degli stanziamenti. Tutto questo ha un luogo decisionale nei palazzi di Roma. Se noi cogliamo quello che è il tratto distintivo delle organizzazioni mafiose da tutte le altre organizzazioni malavitose, sia pure complesse, sia pure organizzate, sia pure diciamo pericolosissime, criminali, eccetera, e questo tratto distintivo è senz'altro quella capacità delle organizzazioni mafiose, e solo di esse, di relazionarsi, di stringere relazioni, di allacciare rapporti con il mondo che mafioso non è, e quindi con l'altro da sé, e soprattutto con l'altro da sé che conta. Noi lo diciamo spesso, lo sintetizziamo in 4-5 categorie: imprenditoria, politica, alta amministrazione, istituzioni, professioni, libere professioni. Allora, questo mondo, questi mondi hanno nella città di Roma un loro insediamento, una loro ragione, e allora si capisce perché le organizzazioni mafiose vedono sullo scenario, si muovono sullo scenario criminale di Roma come su uno scenario privilegiato, insomma. A Roma, da questo punto di vista, questo si può dire, non manca proprio nulla, cioè c'è la presenza massiccia, molto massiccia, dell''ndrangheta in forme e con modalità indubbiamente diverse, ancora tutte da studiare e da definire. C'è la presenza assolutamente massiccia di molti gruppi di camorra napoletana, e soprattutto dei gruppi più forti o che sono stati più forti, come per esempio i casalesi. C'è la presenza massiccia di altri punti terminali di interessi criminali, come per esempio siciliani, Cosa Nostra. E poi Roma anche vive di malavita, come dire, e organizzazioni criminali autoctone, chiamiamole così. Cosa Nostra, Camorra, 'Ndrangheta, non manca nulla dunque nella capitale, dove invece ripetuti omicidi e gambizzazioni ciclicamente hanno fatto parlare pure del ritorno degli eredi della famigerata banda della Magliana, che però, come ricorda il procuratore Prestipino, ebbe opposte letture nelle aule dei tribunali e questo ha contribuito a creare una certa incertezza. Noi dobbiamo ricordarci che la banda della Magliana è finita male, cioè nel senso sì, è finita male la banda della Magliana, ma è finita male anche dal punto di vista giudiziario. Perché? Per chi studia queste cose. Perché il processo alla banda della Magliana si è diviso sostanzialmente in due tronconi. Un primo troncone, diciamo, che ha seguito il rito dell'abbreviato, un altro troncone, quello del dibattimento. Ed è finita che per un giudice che ha, come dire, definito uno dei due tronconi, la banda della Magliana era un'associazione di tipo mafiosa e quindi condanna per 416 bis. Per il giudice dell'altro troncone, quella roba lì, la banda della Magliana, non era mafia e quindi ci sono state le condanne, ma per tutta una serie di altri reati, con esclusione del reato di associazione mafiosa. Per cui, diciamo, una soluzione estremamente contraddittoria, incerta, perché sullo stesso fenomeno criminale ti dava due soluzioni non diverse, due soluzioni opposte. Adesso, proprio nei giorni scorsi, abbiamo definito a Roma la prima parte di un processo, anche questo molto grosso, su alcuni gruppi che hanno messo radici sul territorio di Ostia, che non è proprio, insomma, Ostia è mediamente... Cosa è una città? Fa 200.000 abitanti. Fa 250.000 abitanti, lunghe indagini, oltre una sessantina di arresti nell'estate scorsa, per il reato anche di associazione mafiosa. Due gruppi strutturati molto diversamente tra di loro, che diciamo che da un punto di vista di analisi è estremamente interessante. E nei giorni scorsi, la settimana scorsa, abbiamo avuto la sentenza sul primo troncone, e dove sono stati condannati per 416 bis gli imputati che rispondevano di questo reato. Dopo l'estate avremo la sentenza del secondo troncone, sempre in primo grado, e ci auguriamo che vada allo stesso modo e diversamente da quella, diciamo, di molti anni fa, della sentenza sulla banda della Magliana. Non si scopre nulla di nuovo, voglio dire, al di là della banda della Magliana, ma su Roma operano una serie di punti terminali, chiamiamoli per il momento così, perché altrimenti poi ci compromettiamo con le definizioni e poi con le parole bisogna stare attenti. Cioè operano, diciamo, una serie di punti di riferimento terminali di varie organizzazioni, e questi qua non è che stanno a Roma da 2 anni o 9 mesi, insomma, questi stanno a Roma. C'è persone che stanno ormai da 25, 30 anni, cioè ormai una vita che sono lì. È una vita che sono lì e, come dire, hanno tessuto delle reti, hanno costruito un sistema di rapporti e di relazioni criminali e non solo, che ovviamente si possono vedere da due punti di vista diversi. Cioè tu li puoi guardare verso il basso, e allora cogli, come dire, la frammentazione, cogli, sminuisci tutto, frammenti, dici ci sono i gruppi di quartiere che si litigano la piazza di spaccio, eccetera. Oppure puoi tentare di guardare, come dire, più in là, in avanti, non dico verso l'alto, ma insomma, più in là, diciamo in avanti. E allora se tu guardi in avanti, cerchi di ricostruire quello che io direi, in una città come Roma, per ricostruire che cosa c'è e come ci sta. Bisogna anche dirlo, perché noi siamo un paese purtroppo disgraziato, perché siamo un paese senza memoria, un paese che dimentica sempre tutto, un paese che non sa mettere insieme pezzi della propria storia, le cose ce le dimentichiamo. A me pare, infatti è una, come dire, una cosa che a me preoccupa molto per il, diciamo, per il ruolo che sono chiamato a svolgere, a me pare, ed è, ripeto, estremamente preoccupante, che si stia recitando quella stessa messa in scena che per molti anni noi abbiamo visto, io ho visto a Reggio Calabria, che molti anni fa avevo visto a Palermo, diciamo pure con modalità diverse, e che molto più recentemente abbiamo visto a Milano. A ciascuno il suo. Diceva Paolo Borsellino, parlate di mafia alla radio, in televisione, sui giornali, ma parlatene perché qui il primo e più profondo tassello della lotta ai clan è nella consapevolezza della loro esistenza e del loro potere. Ebbene, da questo punto di vista, nonostante anni di inchieste e di arresti, a Roma ora si sta consumando quello che è già avvenuto altrove, una rimozione del problema, una preoccupante rimozione dell'esistenza dei clan, nonostante i morti ammazzati, i soldi riciclati, gambizzazioni e nonostante le storie di usura e racket scoperte all'ombra del cupolone o nell'hinterland della capitale. Ma come è stato già per Milano nel passato più recente e perfino dopo la sentenza della Cassazione sul processo infinito, sentenza che per l'Andrangheta viene paragonata a quella sul maxi processo di Palermo, proprio come a Milano dunque, ora a Roma l'esistenza delle mafie è argomento tabù e questo è preoccupante, dice senza mezzi termini dal palco di Trame 4, il festival dei libri sulle mafie di Lamezia Terme, Michele Prestipino, procuratore aggiunto della capitale. È il fatto di negare l'evidenza, il fatto di assumere un atteggiamento anche da un punto di vista culturale di tipo negazionista su un fenomeno di cui ammettere la presenza è poco conveniente per tutti quanti, cioè per tutte le componenti sociali, ed è in qualche modo, come dire, crea disdoro. Perché lo dico questo? Perché noi a Milano abbiamo sentito dire nel 2009-2010, proprio mentre le microspie che avevamo messo insieme ai colleghi di Milano, nei punti chiave, eccetera, mentre questi a Milano si riunivano e leggevano il loro capo della Lombardia dopo l'omicidio di Novella, parlo dell'Andrangheta ovviamente, il capo della Lombardia, 25 capi locale dell'Interland milanese, e si, insomma, votavano con l'alzata di mano tutte le cose di crimine infinito che noi conosciamo benissimo, e in quello stesso momento contestualmente c'erano i maggiori vertici istituzionali di Lombardia e Milano, perché questo ce lo dobbiamo ricordare, è legittimo ricordarcelo, non amo fare polemiche, ma bisogna ricordarselo. C'era il Presidente della Regione, il Sindaco di Milano, il signor Prefetto, che all'epoca dicevano, siamo nell'autunno del 2009, che a Milano il pericolo mafioso non esisteva, che Milano era, come dire, esente dal contagio mafioso, che c'era sì, forse, probabilmente, tutt'al più il pericolo di qualche infiltrazione, ma che il tessuto sociale, politico, economico milanese era in grado di respingere con forza e senza alcuna defaianza, insomma, questo contagio. Sappiamo tutti in realtà che cosa è successo. Adesso è, come dire, sancito anche da una sentenza importantissima della Corte di Cassazione, che io paragono per la sua importanza alla sentenza del Maxi 1 di Palermo, quella di ben 25-20 anni fa, sentenza che ammise per la prima volta l'esistenza di Cosa Nostra. Adesso questa stessa sentenza l'abbiamo sull'Andrangheta, però mi permetto di dire che questa sentenza è ancora più importante di quella. Perché? Perché per l'Andrangheta questa sentenza ha aggiunto un pezzo, che non è un pezzo, come dire, di poco conto, perché ha aggiunto il pezzo sul sistema di espansione degli interessi criminali dell''Ndrangheta. Nel 92 questo problema non c'era per Cosa Nostra, perché Cosa Nostra era radicata e confinata nelle cinque province della regione siciliana, aveva dei suoi punti terminali, aveva dei suoi ambasciatori, per carità anche su Milano, però non esistevano 25 mandamenti di Cosa Nostra a Milano. Oggi c'è una sentenza che dice che esistono 25 locali di 'Ndrangheta nell'interland milanese, con degli affiliati, dei capi, col sistema di collusioni, eccetera. Perché lo dico? Perché, nonostante la sentenza della Cassazione, diciamo tre giorni dopo, a 48 ore dal deposito del dispositivo, venerdì, lunedì 9, se non ricordo male, il direttore di un quotidiano nazionale si produce in un incredibile articolo di fondo. Io rispetto tutte le opinioni, soprattutto di quelli che non la pensano come me, sono pratico la tolleranza, e però che di fronte anche a una sentenza della Cassazione che mette come dire, il timbro sull'esistenza di un fenomeno criminale come quello che conosciamo, sulle caratteristiche che ha assunto, sull'espansione eccetera, continua a ripetere il mantra della superiorità della Lombardia rispetto del nord rispetto al sud, la superiorità della Lombardia rispetto alla Calabria, alla Sicilia, recitando ancora una volta questo principio secondo cui l''Ndrangheta, sì, certo, è pericolosissima, però l''Ndrangheta è un problema sostanzialmente calabrese, perché l''ndranghetista a Milano, se c'è, è soltanto un delinquente, i milanesi sanno come isolarlo. A me vi verrebbe ancora una volta da chiedere, il signor Zambetti, per esempio, l'assessore che comprava i voti agli 'ndranghetisti, dove è nato, in quali latitudini è nato, tutti quegli imprenditori che non sono stati costretti, ma che hanno stretto patti con pezzi di 'ndrangheta, le famiglie 'ndranghetiste, per esempio di Rosarno, lo dico perché è un'indagine che conosco bene, avendola fatta insieme ad altri colleghi di Reggio Calabria quando ero qui a Reggio. Cioè, quando c'è l'imprenditore lombardo che là sopra ti dice, da intercettazione, ti dice testualmente, lo dice a un suo collega, tu non sai che cosa sono, che cosa significano queste persone, perché tu di queste persone hai bisogno, tu di queste persone le cerchi, ti ci metti d'accordo, poi però quando te le vuoi levare di torno è molto difficile levartele di torno. A me non mi pare l'atteggiamento di uno che sia stato costretto, come dire, a subire la compagnia di quelle che lui chiama queste persone, e che erano i Bellocco di Rosarno, per capirci, e che per questi fatti sono stati condannati sia a Reggio Calabria, ancora una volta, che a Milano. Ecco, a me preoccupa tutto questo, preoccupa questo atteggiamento culturale di fondo, che in quello che ho raccontato raggiunge addirittura, no, il paradosso di negare quello che addirittura ormai è storia giudiziaria non più contestabile, cioè il timbro della Cassazione. E nel nostro paese, quando c'è il timbro della Cassazione, come si dice, i discorsi si chiudono. Ma è un atteggiamento culturale che io, di cui vedo ampie e significative tracce, anche parlo di culturale, anche in una città come Roma, in cui la tendenza è quella di negare quello che inizia a intravedersi, perché negarlo salva molto, salva molto. A ciascuno il suo, termine qui. Per riascoltare questa come tutte le altre puntate, il sito è radio24.it. Ci trovate sulla pagina Facebook di Storiacce, ricordate Storiacce, e sul blog Storiacce. Su Twitter invece l'account è Raf Calandra. Ciao a tutti, a presto.